secondo evento in cui sfocia questo lavoro fatto insieme sono le lettere alla città, ovvero sia rappresentanti di tutti i gruppi che hanno lavorato si trovano, si stanno già trovando per 4 incontri in più per leggere tutti i progetti di tutti e di tutte e ricavarne delle raccomandazioni, delle proposte, anche critiche, ma anche dei complimenti da presentare il 25 maggio alle 11 in una seduta del Consiglio Comunale, quindi al sindaco, alla giunta riunita, a chi la città la amministra per dire bene, noi abbiamo pensato questo, ci aiutate a portarlo a casa. Terzo ed ultimo sbocco di politico poetico, quest'anno è uno spettacolo che si intitola A Bill delle città, che andrà in scena più avanti, si debutta il 30 giugno, si sta in scena fino al 5 di luglio con più repliche al giorno. È uno spettacolo per relativamente pochi spettatori alla volta, un 25 spettatori alla volta, che ha una prima parte che si fruisce con un visore per la realtà virtuale, una seconda parte più lunga che invece è uno spettacolo teatrale sotto forma di rito, però appunto dentro un cerchio. E di cosa si parla? Si parla di quell'adolescenza, di quei ragazzi e di quelle ragazze che spesso identifichiamo con i ragazzi delle periferie, con la Bologna diciamo violenta o che più ci inquieta, che vengono chiamati con linguaggio spregiativo maranza, e voglio sottolineare che non è questa la parola che vogliamo usare, perché come tutte le categorie caccia la gente dentro delle gabbie che la gente non merita di avere. Però ecco, siamo andati a parlare con queste persone, con le persone che vivono con loro, che lavorano con loro, siamo stati tantissimo dentro i quartieri. Vorremmo restituire l'idea di una città e di una comunità che anche di questo si occupa, che quando succedono fatti di cronaca, anche orribili, brutti, come anche a Bologna ne sono successi, la città non può solo dire vabbè, che se la facciano tra di loro, perché quelle morti, quella violenza ci riguarda? Domanda. Ci riguarda? Dovrebbe riguardarci come comunità? Ecco, lo spettacolo non darà risposte, ma sollevare la domanda ci sembra molto importante in questo momento storico. Abbiamo tanti stereotipi e tanti preconcetti su come sono i giovani oggi e tutto quello che ho appena finito di dire sarebbe molto importante che facesse parte anche di un'educazione per le generazioni meno giovani.